GR24, il sole 24 ore. BCE e governi siano pronti ad intervenire per le aziende italiane a rischio di insolvenza. Monti pensa ad un piano per ridurre il debito. Lo Stato punta a vendere i suoi gioielli immobiliari e fa cassa con le mini patrimoniali. Allarmi incendi, molti sono dolosi. Roma brucia ancora Monte Mario. Siria si combatte nella cittadella di Aleppo. Buon pomeriggio a tutti da Daniele Biacchessi e dalla redazione di Radio 24. La Banca Centrale Europea è pronta ad interventi con operazioni di mercato aperto definitive dopo l'attivazione del salvataggio tramite lo scudo dei fondi salva Stato da parte dei paesi in difficoltà. La BCE è pronta a intervenire per garantire l'irreversibilità dell'euro, ma solo a condizioni molto stringenti. Da Francoforte, la Banca Centrale Europea ha ripetuto nel suo bollettino di agosto il messaggio lanciato la scorsa settimana dal presidente Mario Draghi. Ha confermato così l'intenzione di aprire una nuova strada per affrontare la crisi fiscale di Eurolandia, ma solo dopo l'attivazione del Fondo Salva Stati. Il bollettino ha preso atto del contagio che ha ormai investito Spagna e Italia e ha lanciato un allarme sull'aumentato rischio di insolvenza che pesa sulle imprese italiane a causa dell'incertezza economica. Il sondaggio trimestrale sulle previsioni degli economisti privati ha mostrato infine stime tendenzialmente più basse per la crescita e più alte per la disoccupazione, stabile le aspettative sui prezzi. Riccardo Sorrentino, Radio 24, il sole 24 ore, Francoforte. E ora vediamo i mercati finanziari con Deborah Rosciani. Allora, dopo la diffusione del bollettino della Banca Centrale Europea, le borse sono apparse prive di una reazione decisa. Adesso invece sono tutte quante negative. Milano perde lo 0,7%, Londra meno 0,07%, Parigi meno 0,27%, Francoforte meno 0,74%. Arretra anche l'euro sul dollaro a 1,23,15. Anche ieri la giornata era stata di questo tenore. Poi per Milano in particolar modo c'è stato un colpo di reni sulle finanze che l'ha portata in territorio positivo, ma in ogni caso oggi sembra che questa possa essere la reazione alle indicazioni della Banca Centrale Europea, che appunto ha anche tagliato le stime di crescita del PIL del 2012 e 2013. A Piazza Affari stanno andando bene i titoli del settore bancario, guida Mediobanca più 3,62, mentre in calo ci sono i titoli che hanno corso molto negli ultimi giorni, a partire da Tozze, che oggi segna meno 2,77%. Lo spread questa mattina è scivolato addirittura fino a 437 punti base. Per ora è tutto. Il segretario del Popolo della Libertà, Angelino Alfano, ritiene che ci siano le condizioni per una nuova alleanza con la Lega. Secondo Alfano sarebbe un grave errore che la divisione tra Lega e PDL consegnasse al centro-sinistra il Nord. E il segretario dei Democratici, Pierluigi Bersani, sulle pagine del Sole 24 Ore, spiega che è venuto il momento di mettere al centro delle preoccupazioni economia reale la politica industriale in senso esteso. Intanto Monti pensa ad un piano per ridurre il debito. Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Qualcuno la chiama già campagna d'autunno, per altri si rimanda più semplicemente alla ripresa dopo la pausa estiva. Di fatto a Palazzo Chigi si guarda a settembre, ottobre come ai mesi cruciali per varare quelle misure che possano intervenire sul debito, così come richiesto a livello europeo. Calo di un ventesimo l'anno per la parte che eccede il 60% nel rapporto con il prodotto interno lordo, ma per intervenire sul debito serve un parallelo impulso alla crescita, ecco perché Monti lavora su due fronti, si ragiona sulle dismissioni e partecipazioni, si limano le misure del terzo decreto sulla spending review. Per questo capitolo si andrebbe dal taglio ai finanziamenti dei partiti e dei sindacati a una nuova sforbiciata alla spesa pubblica, resta poi da riattivare la delega fiscale che è ferma alla Camera, obiettivo tagliare la giungla degli sconti fiscali, il tutto con misure per famiglie ed imprese per rilanciare consumi e produttività. Obiettivo dell'esecutivo far sì che la legge di stabilità non preveda un nuovo aumento dell'IVA. Su questo piano di intervento concordano i partiti che appoggiano l'esecutivo Monti, PDL, PD ed UDC, guardano ai mesi che chiuderanno l'anno come all'ultima opportunità di intervenire prima delle elezioni del 2013. E da Roma è tutto. E lo Stato punta a vendere i suoi gioielli immobiliari. Palazzi storici, caserme, castelli, residenze. La stagione delle dismissioni entra nel vivo e il governo, nel tentativo di far cassa, mette sul mercato il suo patrimonio immobiliare. L'idea è quella di un piano pluriennale di vendita di beni pubblici per 15-20 miliardi l'anno, pari all'1% del PIL, capace di ridurre il debito di 20 punti in 5 anni. Piano già entrato in fase di realizzazione con la spending review. Identificati i primi 350 gioielli di Stato, dalle caserme di Bologna al Castello Orsini, di Soriano al Cimino, a Palazzo Diedo sul Canal Grande a Venezia, un patrimonio potenziale di 42 miliardi di euro, non male in tempi di austerity e di riduzione obbligata del debito pubblico, anche se, c'è da dire, il mercato immobiliare non pare molto ricettivo. Come sottolinea il Wall Street Journal, esistono oggettive difficoltà di realizzazione del piano. La crisi dell'euro, che allontana gli investitori istituzionali da paesi come Italia, Spagna e Grecia, la burocrazia italiana, notoriamente lenta, le necessarie ristrutturazioni e soprattutto prezzi apparentemente incompatibili con la scarsa liquidità che c'è in giro. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E sempre lo Stato fa cassa con le mini patrimoniali. Il PDL la fugge come la peste, il PD si lacera tra favorevoli e contrari. I sindacati, con in prima fila la CGIL della Camussola, chiedono con insistenza. In questa stagione di necessità di bilancio la patrimoniale tiene banco e nell'attesa di una patrimoniale nel senso pieno del termine che vada a incidere sulla ricchezza complessiva di una persona, il governo non è stato con le mani in mano, facendo salire la pressione fiscale. Tanto per cominciare sono arrivate quelle imposte definite patrimonialine. L'IMU è una di queste e ha portato nelle casse dello Stato poco meno di 4 miliardi. Poi prelievi su depositi e conti correnti e il ritocco dell'aliquota sulle rendite finanziarie, in tutto circa 3 miliardi. Delusione invece dal contributo di solidarietà, il prelievo del 3% sui redditi superiori ai 300 mila euro ha fruttato solo 91 milioni. Ma c'è tutto il resto, per esempio ci sono le accise sui carburanti, nel primo semestre fermarsi a fare rifornimento ha garantito allo Stato quasi 11 miliardi, due in più rispetto a un anno fa, nonostante il calo dei consumi. E dato che anche le bionde danno soddisfazione, quando ce n'è bisogno un ritocco alle tasse sulle sigarette non si nega, una scelta che ha pagato 5,3 miliardi tra gennaio e giugno. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Alle 13:07 minuti veniamo agli incendi, una lunga pagina. È ancora in corso questo grande incendio nella zona nord di Roma, Monte Mario, un incendio che si è sviluppato stamani in via di Castel Madama, sta minacciando la Madonnina, la celebre statua sovrastante lo stadio olimpico. Le fiamme lambiscono la zona di Villa Madama, la sede di rappresentanza del Ministero degli Affari Esteri. C'è il sospetto che le fiamme molto alte, arrivate a circa 200 metri dalla Madonnina, possono essere di natura dolose. E in Liguria è confermata l'origine dolosa dei roghi che hanno devastato i boschi della Val Fontanbuona. Ora c'è la prova, gli uomini della forestale hanno trovato tra le sterpaglie a Corelia Ligure alcuni barattoli di vernice che sono serviti come innesco. Problemi anche vicino a Pordenone, in Friuli Venezia Giulia, dove un piromane è stato arrestato, diversi interventi aerei nel Foggiano, in Sicilia il Nisseno brucia, alcuni agricoltori delle contrade Minimenti e Casaleno in provincia di Caltanissetta sono stati messi in salvo da un incendio di vaste dimensioni che minacciava alcune abitazioni grazie all'intervento dei carabinieri. Le Olimpiadi, il marciatore azzurro Alex Schwarzer, positivo all'epodon controllo, potrebbe ora diventare testimonial nella lotta al doping. Così il presidente del CONI Petrucci torna sulla vicenda dell'atleta che ha confessato in lacrime il suo errore, tiene a sottolineare come il sistema antidoping italiano sia all'avanguardia nel mondo e il ministro dello sport Gnudi ricorda che chi usa sostanze dopanti deve restare fuori dallo sport. Intanto proseguono le gare da Londra, siamo in diretta con Dario Ricci, buon pomeriggio. Buon pomeriggio da Londra, Daniele. Stamattina è stata la mattinata di Josefa Idem, 48 anni, settima finale in 8 Olimpiadi nella canoa K1 500 metri donne. Bene per la Idem, non è arrivata la medaglia che tutti speravamo per chiudere una carriera grandiosa, ma una prova invece orgogliosa che le ha portato il quinto posto nella finale vinta dall'ungherese Kozak davanti all'Ucraina Osipenko, quell'Ucraina che a Pechino 2008 soffiò l'oro alla Idem per appena 4 millesimi, e alla sudafricana Hartley, quinta Josefa Idem, dopo anche la tedesca Paldanius per appena 3 decimi lontana dal podio, e poi nel dopogara ha di fatto dato l'addio alle gare, preannunciato un futuro da giornalista o magari anche da dirigente sportivo. Comunque un grazie a Josefa Idem, e che rimarrà comunque una bandiera dello sport italiano, anche se diciamo appende la pagaia al chiodo con quest'ultima grande prova. Per il momento è tutto. Grazie a Dario Ricci, che sentiremo naturalmente nei principali giornali radio. Nuovi bombardamenti questa mattina ad Aleppo in Siria, attaccati molti quartieri, colpi registrati in tutte le zone della città. Intanto il presidente Assad ha nominato come nuovo premier il ministro della sanità Wael al-Alki. Sentiamo il racconto di Alberto Neghi proprio da Aleppo. All'incrocio tra la Stadium Highway e la terza strada, al confine con il quartiere di Salah al-Din, prendono posizioni i carri armati. Sono le forze di Bashar Assad che tentano di espugnare la roccaforte dei ribelli. Così è cominciata la battaglia di Aleppo, chiave strategica della guerra civile siriana. Un T-72 di fabbricazione russa manovra lasciando l'impronta dei cingoli su un asfalto liquefatto dal caldo e inizia a sparare. Gli insorti rispondono con granate anticarro e contano sulla mira dei cecchini per frenare l'avanzata dei lealisti. Verso sera, quando lascio Salah al-Din, i lealisti non hanno ancora conquistato il quartiere, né i ribelli ne hanno perso il controllo. Aleppo è una città di volti opposti e quasi paradossali, in bilico tra una guerra feroce e un'apparente normalità. Da parte est si combatte con decine di morti, a ovest c'è un'umanità indaffarata che cammina con l'eco delle cannonate sullo sfondo. La guerra civile siriana è anche questo, un conflitto interno dei contorni contrastanti e un versante internazionale rilevante, se non decisivo. L'Iran oggi convoca a Teheran una riunione informale sulla crisi siriana, il tentativo di salvare un regime che appare sempre più isolato. Grazie ad Alberto Negri. Scontri tra la polizia egiziana e uomini armati si registrano nella principale città del Sinai del nord, Al-Arish, lo riferisce la televisione di Stato egiziana. Intanto le forze armate egiziane hanno iniziato questa mattina l'operazione di distruzione dei tunnel che collegano Rafah a Gaza. Queste sono tutte notizie da fonti di sicurezza egiziane. In chiusura, il cinema. Noi vedevamo le TV italiane, tutti parlavano l'italiano, era come un tipo di finestra da dove noi guardavamo per guadagnare la nostra libertà. Abbiamo cominciato a gridare Italia, Italia, Italia. Un incubo, una scena dantesca fatta rivivere in un docufilm. È la nave Dolce, la vicenda della Flora, la nave con a bordo 20.000 cittadini albanesi che l'8 agosto 1991 sbarcò a Bari in un esodo di massa senza precedenti. La pellicola, firmata da Daniele Vicari, già autore di Diaz, verrà presentata fuori concorso al Festival di Venezia. Un docufilm che ricostruisce nei dettagli l'assalto alla nave da parte di migliaia di persone al porto di Durazzo, il viaggio infernale senza acqua e cibo, l'attracco al porto di Bari, la detenzione nello stadio senza servizi igienici, la rivolta contro la polizia. Quasi tutti i 20.000 albanesi vennero rimpatriati, tranne 1.500 che riuscirono a fuggire. Su tutto questo vuol far luce il docufilm di Daniele Vicari, tra immagini di repertorio e testimonianze attuali di chi visse quei terribili giorni. La nave Dolce, la seconda ricostruzione della vicenda dopo il film L'America di Gianni Amelio, quell'America che gli albanesi pensavano di trovare in Italia mentre per loro si preparava all'inferno. Facevano tutti il segno della vittoria e io pensavo: ma che cosa hanno vinto? Forse hanno vinto il viaggio di ritorno. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Sono le 13 minuti e 41 secondi. Il racconto dall'Italia e dal mondo della redazione di Radio 24 vi saluta qui Daniele Biacchesi. Le prossime notizie nel giornale delle 14.